Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Emergenza coronavirus, il commissario Arcuri rassicura sulla produzione nazionale di mascherine. Da lunedì possiamo distribuirne 12 milioni al giorno. Intanto per l'Istat la spesa sanitaria in Italia è scesa ai minimi dagli anni 90 e il 23% della spesa sociale contro una media europea del 29%. Governo al lavoro sul piano infanzia, si pensa a servizi estivi, a piccoli gruppi per i bambini da 0 a 6 anni. Intanto il Premier difende il piano per la fase 2, scelte necessarie per minimizzare il rischio di una ricaduta. Genova, issata oggi l'ultima campata del nuovo ponte, simbolo dell'Italia che riparte, dice Toti, Conte, lo Stato ha fatto la sua parte. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24 con tutte le notizie. In Italia, rapporto dell'Istat diffuso poco fa, la spesa sanitaria è stata nel 2019 ai minimi degli anni 90. Lo ha scritto appunto l'Istat in un rapporto secondo il quale il grosso della spesa sociale negli ultimi anni è finito soprattutto nelle pensioni, il 66%, mentre la componente relativa alla spesa sanitaria si è progressivamente ridotta. E poco fa a parlare, però con parole rassicuranti, almeno dal punto di vista della produzione nazionale di mascherine, per esempio, uno degli elementi strategici della fase 2, è stato il commissario Arcuri. Partiamo da qua. Nessun cittadino pagherà da oggi le mascherine più di 50 centesimi e lo Stato ne distribuirà la quantità necessaria a tutti. Il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri poco fa in conferenza stampa prova a respingere le polemiche e snocciola numeri. In questo momento, sostiene, il mercato non è in grado di garantire un prezzo giusto per le mascherine, per questo lo Stato deve intervenire. I 50 centesimi fissati nell'ordinanza, ha spiegato, si riferiscono alla vendita al consumo. Nessun cittadino pagherà da oggi le mascherine più di 50 centesimi in farmacia, al supermercato o altrove. Lo Stato, ha spiegato Arcuri, ha distribuito incentivi a 108 imprese italiane per produrre mascherine e ha firmato 5 contratti per rifornirsi a 39 centesimi l'una. Già oggi, dice Arcuri, siamo in grado di distribuire alle regioni 4 milioni di mascherine al giorno. Da lunedì prossimo saliremo a 12 milioni al giorno, da giugno a 18 milioni, da luglio 25, da settembre 30 milioni al giorno. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora torniamo sul DPCM 4 maggio, la misura con la quale il governo ha previsto la ripartenza. Come era accaduto anche per i precedenti provvedimenti, si alzano le critiche di alcune forze politiche e delle regioni che propongono aggiustamenti locali. La fase 2 annunciata dal Premier Conte non convince forze politiche e amministratori locali che giudicano timide e confuse le nuove misure. Critiche e richieste arrivano dalle opposizioni ma anche dai partiti di maggioranza. Il governo calpesta la Costituzione, faccia un decreto vero e il Parlamento lo voti, dice il leader di Italia Viva Renzi. Giugno è lontano per far riaprire le attività, incalza anche il segretario del PD Zingaretti. Dal governo il ministro Boccia manda un avvertimento ai governatori che hanno annunciato un allentamento delle misure di contenimento. Chi sbaglia, dice, dovrà assumersi la responsabilità di un'eventuale ripresa dei contagi sul suo territorio. Ad andare all'attacco dell'esecutivo è anche il centrodestra. La fase 2 è confusa, incerta e contraddittoria, dice a 24 mattino il leader di Forza Italia Berlusconi, che sui ritardi da parte dell'Europa punta l'indice contro i sovranisti. Se vi sono state lentezze e ritardi nell'intervenire a favore dell'Italia è stato proprio a causa delle resistenze dei partiti sovranisti, che sono forti in alcuni paesi, soprattutto nel nord Europa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E intanto si è conclusa poco prima delle 3 di notte la visita in Lombardia del Premier Giuseppe Conte, che è stato a Milano, a Bergamo e a Brescia. Non ci sono le condizioni per tornare alla normalità, stiamo facendo queste scelte necessarie per minimizzare il rischio di una ricaduta, ha detto Conte difendendosi dalle critiche. Per il Presidente del Consiglio e la sua maggioranza si tratta in ogni caso di uno dei passaggi più delicati. Sentiamo Daniele Biacchessi. Non c'è pace per il governo di Giuseppe Conte, impegnato a gestire l'emergenza sanitaria più grave dell'era moderna. Le opposizioni, pur con sfumature diverse, muovono forti critiche sul decreto per la fase 2 e chiedono al Premier di riferire in Parlamento sulle scelte del suo esecutivo. Nei giorni più difficili della tenuta del suo consenso, Conte si è trasferito in Lombardia, nel cuore dello stato di emergenza, e ha spiegato che non ci sono le condizioni per tornare alla normalità, perché la curva epidemiologica è certamente in discesa, ma ci vuole nulla per farla risalire. In questa sua controffensiva il Premier può contare certamente sull'appoggio del Partito Democratico e del 5 Stelle, molto meno di Italia Viva. L'ultima bordata arriva stamattina. Per Renzi l'ultimo decreto presidenziale è un errore politico, economico e costituzionale, perché delega al Comitato Tecnico Scientifico una scelta politica, cioè contemperare i rischi. I voti dei renziani in Senato risultano determinanti e il futuro del governo è appeso ad un pugno di parlamentari a cui si possono aggiungere altri dissidenti del 5 Stelle. A maggio, mentre l'Italia si avvia alla lenta ripresa, il rischio di un cortocircuito politico-istituzionale non è dunque escluso. E intanto un invito ad una gestione più corale della crisi e dell'emergenza arriva anche dalla Presidente della Corte Costituzionale, Cartabia. Anche nei giorni sospesi dell'epidemia le funzioni delle istituzioni restano inalterate, così Marta Cartabia scrive con chiarezza che non esiste un diritto speciale per tempi eccezionali. Il richiamo della Presidente della Corte Costituzionale arriva quando si intensificano le discussioni sui diversi diritti in gioco con le restrizioni e, come sempre, la bussola sta nella Costituzione, la cui piena attuazione però richiede leale collaborazione. Nelle 23 pagine della relazione nessun accenno diretto al virus, che ha raggiunto anche lei, la prima donna alla guida della Consulta, obbligata ad un mese di lavoro da remoto, ma solo un riferimento al frangente drammatico che ha fermato anche i viaggi dei giudici nelle scuole e ancora nelle carceri. È una corte sempre più aperta al mondo, quella descritta, una corte che si fa conoscere anche con podcast e che è sempre in relazione, si sottolinea, con la trama istituzionale repubblicana. Dunque non più un mondo inaccessibile, ma aperto anche al dialogo con la politica, pur non essendo, si ricorda, legislatore positivo. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed uno dei punti più discussi, stiamo tornando al piano del governo per la fase 2, riguarda asili, scuole e anche università. Il futuro del paese, i ragazzi lo sono, lasciato ai margini di ogni iniziativa e sul quale al momento non ci sono ancora progetti chiari. La novità è che da oggi il governo lavora a un piano infanzia. L'Italia riparte ma lascia indietro i bambini. Chiuse le scuole, chiusi per ora i centri estivi e con le famiglie che tornando al lavoro non sanno a chi affidare i figli. La ministra della famiglia Elena Bonetti ha parlato oggi di un congedo parentale allo studio in forma elastica. Rimane poi, ha detto, il sostegno economico per la babysitter. Nei prossimi giorni si dovrebbe riunire al Ministero della Famiglia un tavolo formato da associazioni del terzo settore e pediatri per scrivere le linee guida cui poi dovranno attenersi i comuni per aprire i centri estivi. Io ho chiesto, non è stato possibile, ma continuerò a insistere perché questo accada, di riaprire in particolare i servizi dell'infanzia 06, ovviamente riorganizzati. I dubbi sono molti, come gestire le distanze di sicurezza in luoghi che per loro natura esistono per aggregare, come selezionare il personale, come organizzare le mense, gli ingressi scaglionati e soprattutto con che fondi si potrà fare tutto questo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alle conseguenze economiche dell'emergenza coronavirus. A causa della pandemia vola la domanda di prestiti da parte delle imprese, così dice oggi la Banca Centrale Europea. Confindustria intanto avverte bene il decreto liquidità, anche se con limiti che vanno superati. Nel primo trimestre 2020 la percentuale di banche che hanno mostrato un aumento della domanda di credito è balzata al 26% contro il meno 7% del trimestre precedente. A causa di pandemia e lockdown vola dunque la richiesta di prestiti da parte delle imprese, scrive la Banca Centrale Europea. Positivi gli interventi messi a punto dal governo per far fronte all'emergenza liquidità, ma con limiti e criticità da superare, spiega in audizione alla Camera la direttrice generale generale di Confindustria, Marcella Panucci. Tra le proposte, debiti rimborsabili a 30 anni. Riteniamo penalizzante il limite di 6 anni per la restituzione del finanziamento, rispetto al quale sarebbe importante anche qui un confronto con Bruxelles per estenderlo a un tempo più lungo. Quest'anno, secondo l'Istat, cresceranno ancora le indennità di disoccupazione dopo il livello massimo di spesa raggiunto nel 2019. Saliranno anche le spese per cassa integrazione, tornate ai livelli molto bassi pre-crisi 2009. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo all'estero, in un paese particolare, il Giappone, che ha annunciato misure senza precedenti come soldi sul conto corrente di tutti i cittadini e un acquisto illimitato di titoli di Stato. Audaci, costose e anche controverse sono alcune misure che il governo giapponese ha deciso di varare per contrastare la crisi economica da coronavirus. Tra queste spicca un bonus in contanti di 100.000 yen, 860 euro, che sarà erogato a tutti i cittadini e anche agli stranieri residenti, indipendentemente dal reddito. Per chi ha perso il lavoro sarà una provvisoria ancora di salvezza, mentre chi non ne ha bisogno, il governo guidato dal premier Abe spera che non faccia la relativa richiesta. Comunque si prevede una spesa di ben 76 miliardi di euro per questa iniziativa. Il valore complessivo del pacchetto di stimoli all'economia giapponese è stato stimato in oltre 1.000 miliardi di euro, ma la spesa effettiva sarà intorno a poco più di 400 miliardi. Anche la Banca del Giappone fa la sua parte, ha deciso di comprare titoli di Stato per un importo potenzialmente illimitato e cerca di favorire in vari modi i prestiti bancari. Ma la stessa Banca Centrale stima che la recessione sia già in corso e proseguirà per tutto l'anno, oltre a prevedere il ritorno della deflazione. Stefano Carrer, Radio 24, Sole 24 Ore. Notizie anche sul fronte delle Olimpiadi, a questo punto slittate al 2021. Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, i giochi olimpici saranno annullati. Lo ha sottolineato il presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, Yoshiro Mori, in una intervista al giornale giapponese Nikkan Sports. 13 e 13 minuti, è tutto per la prima parte di Effetto Giorno. Torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Andremo a Genova, dove è stata issata l'ultima campata del nuovo ponte sul Polcevera, dunque un giorno importante. Poi fase 2, ripartire dalle biciclette, almeno nelle città potrebbero essere il mezzo più sicuro e più sano per spostarsi. Vedremo se siamo pronti anche per questa novità. Poi torna a trovarci il professor Crisanti, con lui vedremo se è adeguato il nostro sistema sanitario per il contrasto di questa fase dell'epidemia di coronavirus per quanto riguarda il tracciamento e la cura del virus, perché senza questi strumenti non ha forse neanche senso parlare di fase 2. Tra poco 349 238 6666, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Emergenza coronavirus, il commissario Arcuri rassicura sulla produzione di mascherine, da lunedì possiamo distribuirne 12 milioni al giorno. Governo al lavoro sul piano infanzia, si pensa a servizi estivi a piccole gruppe per i bambini da 0 a 6 anni. Intanto il premier si difende sulla fase 2, scelte necessarie per minimizzare il rischio di una ricaduta. Corsa a realizzare nuove piste ciclabili in tutte le città. Per la bici la fase 2 potrebbe essere quella del rilancio, ne parliamo tra poco. Genova issata oggi l'ultima campata del nuovo ponte, simbolo dell'Italia che riparte, dice Toti. Conte dice lo Stato ha fatto la sua parte. E 15 minuti, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, teniamo fede all'impegno che abbiamo preso dalla scorsa settimana di raccontare ogni giorno almeno un aspetto costruttivo, positivo di tutta questa vicenda, qualcosa a cui possiamo aggrapparci per costruire la fase 2, aspetti costruttivi, appunto un tassello di questo mosaico potrebbe essere la bicicletta. Ebbene sì, perché può sembrare una cosa magari così un po' estemporanea, fricchettona o solo per chi sta in città, ma insomma per chi sta in città e ha tutto a portata di mano, almeno nel giro di qualche chilometro, la bicicletta potrebbe rivelarsi lo strumento più sano e più sicuro per spostarsi, dal momento in cui da lunedì prossimo 4 milioni di persone in più rispetto ad oggi si muoveranno per lavoro. Ne parliamo con Alessandro Turzi, presidente della FIAB, la Federazione Italiana Amici Ambiente Bicicletta. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, ci sono diversi comuni che hanno già annunciato, Firenze ha parlato di un'operazione Bartali per la costruzione di 12 km di piste ciclabili, Milano parla di 35 km di nuove piste ciclabili, alcune nuove, altre che saranno temporanee, insomma gli annunci si sprecano in queste ore. Però io le voglio chiedere per la prima cosa, Turzi, quanti sono oggi, o almeno quanti erano prima della crisi, insomma, gli italiani che usavano la bicicletta per fare casa, lavoro, casa, scuola? Non molti, molti, anche se in aumento. In un decennio sono passati da un 3% del totale, non è tanto come persone, quanto un numero di spostamenti, perché sì, ognuno di noi usa diversi mezzi. Nel totale, fatti il numero 100 di spostamenti, fino a 10 anni fa 3 spostamenti su 100 erano fatti in bicicletta, oggi siamo, almeno fino a prima della crisi, avevamo superato i 5 spostamenti su 100, ancora pochi, ma è quasi un raddoppio in un decennio. Quindi un raddoppio in un decennio non è poca cosa. Altri paesi europei, manco a farla apposta, manco a dirlo, hanno percentuali, credo, più alte. Siamo anche oltre un quarto, in qualche caso anche un terzo, tra gli spostamenti, considerando anche bus, metro, treni, automobili, aerei, navi, tutto l'insieme degli spostamenti, anche extraurbani e altro, si arriva anche a sfiorare un terzo degli spostamenti solo sulla bicicletta. E non è cosa strana se pensiamo che i 2/3 degli spostamenti che noi compiamo quotidianamente in auto, che si compiono in auto, avvengono in ambito urbano o periurbano per una manciata di chilometri, laddove la bicicletta è sicuramente molto più competitiva, più rapida e più semplice, visto che poi tra i tempi bisogna anche considerare il risparmio sui tempi per la ricerca del parcheggio. Ecco, la strategia annunciata dai sindaci in generale in questi anni, ma anche adesso, è sempre quella di annunciare piste ciclabili, poi alcune vengono realizzate, altre si fermano a metà, sono troppo strette. Ma io le chiedo, partendo intanto però da cos'è che ha, diciamo, frenato fino ad oggi, secondo voi, secondo i vostri analisi, studi, in Italia l'uso della bicicletta rispetto agli altri paesi? La conformazione del territorio, le poche piste ciclabili fatte male, che cosa? No, le ciclabili poche fatte male sono solo, soprattutto poche, sono solo una conseguenza. La causa a monte è una questione veramente culturale, noi non abbiamo alcuna forma di limitazione agli spot delle auto e siamo inondati quotidianamente, almeno fino a prima del Covid, inondati quotidianamente, bombardati da un lavaggio del cervello per cui ci fanno vedere le auto in città deserte a nostra disposizione. C'è una visione completamente distorta di quello che è l'uso che si può fare dell'auto, ormai l'auto viene venduta come oggetto emozionale, personale, perché non ci sono più ragioni oggettive e logiche per continuare a comprare auto. Abbiamo 40 auto e sono 8 milioni di bambini, cioè un paese che ha 5 auto per ogni bambino, ovviamente c'è qualcosa che non va, sta non investendo, sprecando le proprie risorse, per non nel proprio futuro ma nel bruciarle in mezzi che durano poco e fanno male anche alla stessa economia, perché ha un eccesso di uso dell'auto, ha delle diseconomie incredibili sulla nostra salute, sul tempo che perdiamo, sulla qualità dello spazio urbano, sul commercio urbano che è devastato. Chi può pensare di trovare parcheggio di fronte al negozio in città? Non lo trova e poi va a comprare online. Con la bicicletta si arriva davanti al negozio, la si lascia e si fa l'acquisto. Assolutamente. Voglio far sentire però, Turzi, anche il presidente dell'ANCMA, l'Associazione Nazionale Ciclo e Motociclo Accessori, Paolo Magri, al microfono della nostra Alessandra Schepisi, che commenta una delle, diciamo, delle falle forse della fase 2, cioè proprio quello che diceva lei, i negozi, però non i negozi in generale, ma i negozi di biciclette, perché se, come detto da molti, i mezzi pubblici viaggeranno al 20-30% della capienza, in tanti sceglieranno il mezzo privato, molti anche la bicicletta, allora forse aprire i negozi di ciclisti, i negozi che vendono biciclette, pezzi di ricambio, perché magari qualcuno ha la bici ferma da 2 mesi, poteva essere d'aiuto. Sentiamo. Siamo rimasti molto sorpresi del fatto che non siano stati inclusi i negozi di biciclette nella riapertura, perché Le fabbriche di biciclette possono ricominciare a lavorare dal 4 maggio, ma se non trovano lo sbocco commerciale nei negozi, direi che può diventare un problema. Io francamente spero che sia solo una dimenticanza o un'interpretazione errata, perché non ha senso tenere chiusi i negozi di biciclette in un momento in cui la bicicletta avrà un ruolo fondamentale per la mobilità sostenibile delle città nelle prossime settimane o mesi. Insomma, potrebbe essere un'economia strategica questa qua dei negozi. Turzi, un commento su questo se vuole, poi tornerei un attimo anche sulla questione delle piste ciclabili, perché per esperienza diretta non c'è cosa peggiore che vedere realizzata una pista ciclabile con un cantiere che occupa la strada per diversi mesi, la strada che si restringe lo spazio, gli automobilisti che iniziano a lamentarsi e poi la pista ciclabile è vuota. Perché? Perché non perché i ciclisti sono matti, credo, ma perché spesso la ciclabile dopo 50 metri si interrompe, è troppo stretta, non si circola come si dovrebbe. Quali sono le caratteristiche che devono avere in testa gli amministratori per fare queste benedette piste ciclabili che poi servano effettivamente e agevolino l'andamento del traffico? È una filiera, amministratori, tecnici comunali che seguono i progetti e tecnici incaricati, parlo anche da tecnico, sono un architetto e me ne occupo anche di queste cose per professione. Se non c'è una filiera di persone che usano la bici quotidianamente, non saranno in grado di concepirla, di progettarla, oppure se c'è un progettista all'altezza, è l'amministratore che mette freni perché non vuole che si prenda troppo spazio alle auto. E quindi questo crea un circolo vizioso, per questo dicevo una questione culturale, anche perché a monte c'è un'opinione pubblica che sì, va bene la bicicletta, ma attenzione, i parcheggi sono sacri, quando in realtà lo spazio pubblico è un bene comune di tutti, sì, non è un qualcosa di riservato a proprietà privata. Mi permetto di dare un suggerimento non richiesto e anche piuttosto banale a tanti amministratori. Dove è possibile si può passare dai parcheggi in orizzontale a quelli in obliquo, a rischia di pesce? Si guadagna molti parcheggi, però si... Esatto, quelli in linea ma anche quelli a rischio di pesce, dove c'è spazio, dove la strada è larga, si può creare la pista ciclabile mantenendo i parcheggi con questa modalità e sottraendoli negli altri tratti dove non è possibile mantenerli perché la strada è più stretta. Insomma, le soluzioni ci possono essere. Lei ci crede in questo salto di qualità questa volta? Perché davvero questo è un momento nel quale dobbiamo ragionare in maniera diversa, pensare al futuro in maniera diversa, siamo obbligati a farlo, questa è un'opportunità. Altrimenti, certo, se non la sappiamo cogliere, con il problema che appunto il trasporto pubblico potrà trasportare molte meno persone se viene il distanziamento, quello che ci attende non è più passare 1 o 2 ore al giorno nel traffico, se tutti passeranno dal TPL all'auto privata, ma ne passeremo 4 o 5 ore al giorno nel traffico, qualcuno non potrà andare a lavorare, arriverà sotto il posto di lavoro e dovrà tornare indietro perché non trova parcheggio. È uno scenario terrificante questo, veramente. Ecco, speriamo che non si... Tutti, sì. Perché occhio, un'auto occupa lo spazio di 10 biciclette, anche le piste ciclabili sono vuote. In realtà basta una manciata di persone in auto per fare un ingorgo. Quello stesso numero di persone in bici occupa uno spazio 10 volte inferiore. Assolutamente. E non crea ingorghi, quindi scorre fluido. E l'auto è come prendere delle particelle, gonfiarle e renderle viscose. È ovvio che il tubo è sempre intasato. Se invece io le faccio più piccole e molto meno viscose, molto più lubrificate, quel tubo, anche se più stretto, non sarà mai intasato. Dirò, quel tubo è vuoto. No, quel tubo non si intasa. Questo è il concetto della pista ciclabile. Va bene, Turzi, Alessandro Turzi, presidente della FIAB, grazie per essere stato con noi. Insomma, io penso che sarà anche una scelta, una libera scelta di molti, diciamo anche egoistica, perché tra farsi 2 ore di traffico o stare con l'angoscia in un mezzo pubblico, con l'ansia di poter essere contagiati, prendersi, inforcare le 2 ruote, farsi una bella pedalata sotto il sole, non credo che, cioè non c'è gara, insomma, questa volta non c'è gara. Poi chiaramente vale per chi sta in città, per chi ha l'ufficio a pochi chilometri di distanza e non a 20 o 30 chilometri. Anche se si possono fare anche pedalate di 20 chilometri. Carmelo Ricella, il nostro regista, dice sì, perché lui è un grande ciclista. Parliamo adesso di un altro aspetto positivo, costruttivo anche in questo caso, ed è l'annuncio da parte della Adventa, Divisione Italiana dei Vaccini RBM di Pomezia, con la Jenner Institute di Oxford, di un vaccino forse già a settembre. Diana Fracchia. Potrebbe essere pronto già a settembre il vaccino anti-Covid-19 che tutto il mondo aspetta. A rivelarlo i ricercatori dell'Università di Oxford, forse ad un passo dalla svolta. Se infatti ne verranno confermati sia l'efficacia che la sicurezza, milioni di dosi potrebbero essere pronte per l'inizio dell'autunno. Qualora l'immunità ottenuta nei test sulle scimmie, ovvero i macachi, molto simili a noi, venisse confermata anche sugli umani, la tanto attesa svolta sarà effettiva. Ed è già in corso la prima fase clinica di sperimentazione umana del vaccino messo a punto dallo Jenner Institute in collaborazione con l'azienda Advent IRBM di Pomezia. Ai test partecipano 500 volontari, tra cui una ricercatrice 32enne di origine italiana, Elisa Granato. La studiosa di zoologia e microbiologia presso l'Università di Oxford è la seconda volontaria, dopo il collega oncologo australiano Edward O'Neill, ad aver provato il prototipo del vaccino sviluppato ad Oxford per combattere il Covid-19. Il 23 aprile si è sottoposta al test tramite iniezione e fa sapere che sta benissimo. Nei giorni scorsi il miliardario cofondatore di Microsoft Bill Gates ha dichiarato che se questo vaccino si rivelasse efficace sarebbe disponibile a finanziarlo e di aver già preso contatti con le più importanti case farmaceutiche mondiali per garantirne una produzione di massa. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora, come annunciato, andiamo a Genova con il nostro collega corrispondente Andrea Ferro. Ciao Andrea. Sì, buongiorno Alessio. Oggi una è stata una giornata particolare Sì. Allora, raccontaci com'è andata, Andrea, perché naturalmente c'è stata una cerimonia anche istituzionale, ma insomma era annunciato l'ultimo tratto di, come si dice, di elevamento della campata. L'ultima campata, la 19esima, che è andata a incastrarsi tra le pile 11 e 12, e praticamente da quel momento, era mezzogiorno, il ponte è una linea unica di 1067 metri a congiungere le due parti che erano state isolate in seguito al crollo avvenuto, come certamente ricordiamo bene tutti, il 14 agosto 2018. Una cerimonia, dicevi, alla quale ha partecipato anche il Premier Conte, ma una giornata per la città e non solo per la città molto particolare, come dicevo in apertura di collegamento, perché francamente, anche lo dico con un filo di emozione da cronista che ha seguito le vicende del ponte, vedere veramente una unica linea, dalle forme oltretutto molto diverse da quel vecchio Morandi senza gli stralli, sembra, Alessio, a guardarlo addirittura più piccolo, più stretto, in realtà addirittura sarà più largo e ci sarà una corsia in più rispetto al vecchio ponte. Oggi, per salutare il ponte, ormai lo scheletro potremmo dire, perché chiaramente mancherà ancora qualcosa per rifinire i lavori e poi vedere circolare le auto, ecco, vedere lo scheletro per salutare così il nuovo assetto di questo ponte, sono state il concerto delle sirene delle navi dal porto, anche se devo dire si sono sentite poco dalla zona del cantiere, il fischio del treno, le sirene delle ambulanze, questa grande bandiera della Croce di San Giorgio, che è il simbolo di Genova, a campeggiare appunto su questo ponte che sarà inaugurato con ogni probabilità a metà luglio. Non c'è ancora una data, perché si diceva sin dall'inizio che una volta completato lo scheletro ci sarebbero voluti almeno 3 mesi, contano di farlo in 2 mesi e mezzo ed arrivare intorno, ripeto, a metà luglio a vedere appunto le prime auto circolare sul Polcevera. È una delle poche cose, Andrea, che addirittura in anticipo in questo paese, in questo periodo storico. Sì, è una battuta questa, ma è la verità. Anche. Addirittura, allora, innanzitutto, se vogliamo contabilizzare i tempi del lavoro, parliamo di 310 giorni dalla prima gettata, chiaramente riguardava le fondamenta delle pile, e 620 giorni dalla tragedia di Ponte Morandi, ma va anche ricordato che in realtà il cronoprogramma iniziale parlava di tempi ancora più ristretti, addirittura si parlava di inaugurazione ad aprile, cosa che non è avvenuta per una serie di motivi. Ci sono stati dei problemi per il maltempo in autunno, poi c'è stato un incendio alla fine dell'anno nel cantiere e poi l'emergenza coronavirus che ha condizionato, anche perché ci sono stati dei casi all'interno, e poi comunque chiaramente ha imposto ritmi di lavoro, modalità di lavoro un po' diverse rispetto a quanto condizionato, però non è stato in grado di, come dire, di rallentare più di tanto, di arrestare tantomeno, perché invece le notizie sono queste, sono notizie molto positive, una giornata importante per Genova, quindi dicevi già a luglio potrebbe esserci, parliamo del collaudo. Sì, allora, questi due mesi e mezzo sì. in pochi secondi perché abbiamo la pubblicità. Allora, in pochi secondi bisogna stendere una soletta sì. di cemento armato, poi due strati di bitume, poi ci saranno tutti i sensori e ci sarà tutto l'allestimento, e quindi con l'Audi, ripeto, contano di inaugurarlo il 15-20 luglio. Speriamo che ci si possa muovere per quell'epoca lì, perché per il momento grossi spostamenti, no, scherzo, perché in realtà intra-regione è già consentito per diverse motivazioni muoversi, e per Genova questa infrastruttura è molto importante. Grazie Andrea Ferro per essere stato con noi da Genova. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Tra poco torna a trovarci il professor Andrea Crisanti, con lui cercheremo di capire fondamentalmente una questione: tamponi. Siamo in grado di farne più di quello che è avvenuto fino ad oggi? Perché senza la capacità di individuare i nuovi casi è possibile, c'è il rischio, ce lo dicono gli esperti, che l'epidemia risalga. Il giorno in cui siamo diventati grandi per uno schiaffo o una carezza. La volta in cui abbiamo conosciuto la morte. Tutte le nostre prime volte, ma anche tutte le nostre ultime. L'estate del primo amore o il traguardo della maratona che non pensavamo di poter tagliare. Ogni nostra storia, piccola o grande, racconta di una linea. Un confine che abbiamo varcato. Una soglia oltre la quale siamo passati. A volte senza accorgercene, altre dopo mesi o anni di lavoro. Linea d'ombra non si limita più a raccontare i vizi capitali, ma tutte quelle storie che hanno segnato un confine nella nostra vita. Le linee d'ombra che nel bene o nel male ci hanno fatto diventare le persone che siamo. Scrivetele in una o due pagine e inviatecele a lineedombra@radio24.it. Noi le prendiamo e ci costruiamo intorno a una puntata. Linee d'ombra di Matteo Caccia, da lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Genova è stata oggi l'ultima campata del nuovo ponte, simbolo dell'Italia che riparte, dice Toti. Conte, lo Stato ha fatto la sua parte. Emergenza coronavirus, il commissario Arcuri rassicura sulla produzione nazionale di mascherine. Da lunedì possiamo distribuirne 12 milioni al giorno. Governo al lavoro sul piano infanzia, si pensa a servizi estivi a piccoli gruppi per i bambini da 0 a 6 anni. Dopo le polemiche della CEI sui limiti alle funzioni religiose, ecco l'invito del Papa a rispettare le regole contro la pandemia. 13:35 minuti. Ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, i vostri messaggi al 349-238-6666. Sulla questione delle biciclette, moltissimi messaggi. Cominciamo con questo ascoltatore che dice: ho appena fatto 10 km a Padova, città che vanta centinaia di chilometri di piste ciclabile, la stragrande maggioranza dei ciclisti non le utilizzava. E questo è quello che si diceva prima, spesso perché queste piste non sono all'altezza, non perché i ciclisti abbiano qualcosa che non va, in genere è quello. Poi ancora biciclette, ma anche monopattino, anche elettrico, usabile da tutti, dice Massimo da Genova. Certamente c'è spazio anche per i monopattini in questa fase, sempre parliamo delle città naturalmente, perché chi deve fare salite o discese o ha molti chilometri di fronte a sé non può andare certamente in monopattino. Guardate, prendete esempio, dice Livio da Catania, dalla Spagna con le piste ciclabili, un altro modo mondo rispetto all'Italia. Ecco, speriamo che prima o poi qualcuno dirà: ecco, vedete, prendete esempio dall'Italia, che hanno fatto così bene con le piste ciclabili dall'estero. Sarebbe bello che questo accadesse. È il momento del punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. La fase 2 che non c'è crea frustrazione, innanzitutto perché il messaggio resta solo quello del panico. Il report dell'infettivologo legato al parametro R0, che è la sua giusta unica ossessione. Ma la politica è contemperare interessi e applicare il criterio di proporzionalità. E il premier, che ormai incarna l'uomo solo al comando e mostra di compiacersene parecchio, ci sta soltanto dicendo di aspettare che tutto passi, perché lo dicono i tecnici. Oggi, nell'era dei big data, così come nell'Italia della morte nera, la peste del 300, quando anche allora ci si chiudeva in casa terrorizzati e si aspettava che passasse il castigo di Dio. La sensazione di fondo è che quel messaggio dice agli italiani che sono un popolo di sudditi infantili da blandire e minacciare al contempo. Mentre è chiaro che gli italiani hanno capito la gravità del fenomeno e sarebbero pronti a gestire responsabilmente nuovi comportamenti sociali. se solo qualcuno accettasse la scommessa. La fase 2 dovrebbe essere l'annuncio di una ripartenza per un'Italia migliore, quella che oggi simboleggia il nuovo ponte di Genova, di una nuova stagione di energie per mobilitare le risorse ingenti che il paese ha, di idee innanzitutto, per creare la nuova normalità di convivenza con il Covid-19. Si tratta di vivere il virus come occasione di investimenti e di indennizzi per chi ha perso tutto. E sarebbe perfino un modo per far ripartire il PIL devastato. Va pianificata infine la vita dei più piccoli, che il secondo paese più vecchio del mondo ha tenuto ai margini di questa narrazione della tragedia. Un altro errore, perché abbiamo dimenticato che sono loro la vera fase 2. Eccolo, abbiamo annunciato il professor Andrea Crisanti, di nuovo con noi, è tornato a trovarci, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, lui è direttore di medicina molecolare e virologia all'Università di Padova, consulente della regione Veneto. Con lei, Crisanti, vogliamo cercare di capire intanto cosa ne pensa di questa fase 2, così come è stata annunciata, se è coerente con lo stato di diffusione del contagio oggi in Italia, tenendo presente, faccio solo questa piccola premessa, che quello che è sembrato mancare al discorso di Conte l'altra sera è stato tutta una parte, un po' come diceva anche poco fa il vice direttore del Sole Orioli, la parte delle energie da mobilitare, comprese le energie del sistema sanitario nazionale, se possibile, perché parliamoci chiaramente su test, tamponi, la questione della famosa app, siamo evidentemente molto in ritardo, almeno per esempio per quanto riguarda i tamponi, fino ad oggi lo siamo stati. Se poi ci sarà un cambio di passo in grado di individuare i casi, tracciarli e anche possibilmente di curarli nel modo giusto negli ospedali, saremo ben lieti di affrontare la fase 2, anzi tutti non vediamo l'ora, però e il punto è proprio interrogarci su questo. Intanto le chiedo un giudizio su le misure che sono state adottate. Guardi, premesso che non hanno nulla di politico quello che io dico, è soltanto di aspetto tecnico, ecco, io penso che queste misure sono totalmente sganciate dai numeri, di fatto non si capisce come sono modulate sul rischio, perché determinate attività devono riaprire in qualche fra 15 giorni, altre fra 30 giorni, adesso subito, perché le chiese sì, le chiese no, cioè a me sembra che siano il risultato di pressioni, di valutazioni che poco hanno a che fare con il rischio reale. Questa è l'impressione che ho. Per esempio, ma le faccio un esempio. Sì. Ma le faccio un esempio. Cioè, oggi o ieri, anzi, ci sono tanti casi quanti ce n'erano quando praticamente abbiamo chiuso tutta quanta l'Italia. L'unica differenza è che i casi sono in diminuzione, però ce ne stanno ancora tantissimi. Quindi, allora, ecco, qual è il rischio accettabile? Perché apriamo in queste condizioni determinate attività ed altre no? Fermo restando che penso che determinate attività devono essere riprese, ma deve essere in qualche modo anche condiviso questo rischio accettabile, perché poi questo rischio lo subiamo tutti quanti noi. Sì, una cosa per esempio, Crisanti, è questa, no? Dopo le polemiche che ci sono state tra il governo e le regioni, sembra che la possibilità di differenziare le misure regione per regione sia sparita dagli orizzonti proprio per non creare scontenti magari da qualche parte, però sembrerebbe anche a quello che dice lei, avrebbe potuto essere ragionevole. Ci sono regioni dove non ci sono casi, siamo a esatto. Zero, dove si possono fare delle cose che magari in Lombardia o in Piemonte non si possono fare. Ma esatto, per questo sto dicendo che non è basata sul rischio, perché ci sono delle regioni che hanno dei rischi obiettivamente molto minori, sulle quali si sarebbe potuto fare delle sperimentazioni più coraggiose per capire se eravamo in grado di bloccare l'epidemia, ma non solo, ma se avevamo la capacità di reazione. Perché la cosa importante sì. è che bisogna mettersi in testa è che via via che queste misure di distanziamento sociale vengono via via abrogate, il rischio del contagio di fatto aumenta. Allora ci si pone il problema: in questi due mesi abbiamo o no aumentato la capacità di reazione? Perché sicuramente abbiamo aumentato i letti in rianimazione, questa è una cosa sicuramente importante. Però in questo momento, tra l'altro, sono in diminuzione, quindi diciamo c'è un doppio effetto positivo. Però diceva, la battaglia vera è un'altra. Si vince sul territorio. Ecco, a proposito del territorio, Crisanti, lei è dall'inizio che insiste sulla necessità di fare tamponi, il Veneto pro capite ne ha fatti più di tutti, lei ha cominciato a procurarsi reagenti, lo ha detto in diverse interviste, prima ancora che la pandemia arrivasse in Italia. Io le voglio chiedere questo, se è possibile fare chiarezza, perché che fino ad oggi ce ne siano fatti pochi, è abbastanza evidente, lo raccontano mille storie in tanti luoghi dove gente con sintomi Covid oggi non viene tamponata. Allora io le chiedo, esatto, per quello che lei ne sa, insomma, di come è stata gestita la strategia fuori dalla sua regione, Veneto, perché sono stati fatti pochi? Per mancanza di volontà, perché si riteneva che fosse sufficiente tamponare chi era in ospedale, o perché scarseggiano i tamponi, o per lentezza della burocrazia sanitaria? Qual è il motivo per cui è importante saperlo? Fino ad oggi sono stati fatti pochi tamponi. È un po' di tutto, sicuramente poi ha giocato un ruolo importante anche l'adesione delle nostre autorità di sanità pubblica a quelle che erano le direttive dell'OMS, che praticamente relegavano i tamponi, quindi la diagnosi molecolare ha un ruolo molto marginale, e quindi poi questa linea è stata tenuta per parecchie settimane fino a che poi di fatto è diventato molto più difficile approvvigionarci. Ma mi faccia fare una riflessione, sì, che si collega anche a questa app Immuni e anche ai numeri dei casi reali. Allora, guardi, noi in questo ieri c'eravamo circa 2.000 casi, come lei giustamente ha detto ci sono ancora tantissimi casi di persone a cui viene detto di rimanere a casa e che sono fuori da questo conteggio. Si stima che siano perlomeno 4-5 volte tanto quelli reali, quindi di fatto noi abbiamo circa 5.000 tra i 5.000 e gli 8.000 casi. Cioè lei dice, visto che certificati ce ne sono circa 2.000, sì, probabilmente ce ne saranno circa 8.000. Moltiplicando per 4 arriviamo a reali 8.000 casi. 8.000 casi. Allora, ma l'app Immune a che serve se noi questi 8.000 casi non licenziamo tutti? E poi mi faccio fare un altro ragionamento. Se noi per ogni persona che di fatto diventa positivo, ha incontrato circa 10-15 persone, sì, noi che facciamo? Ogni giorno mettiamo in quarantena 100.000 persone per 14 giorni, quant'è la quarantena? Cioè noi ogni due settimane abbiamo 2 milioni di persone circa in quarantena, alle non quali facciamo questo. Il tampone e le teniamo a casa, perché l'unico modo per tirarle fuori dalla quarantena è fargli il tampone. Quindi l'app senza il tampone non c'ha senso. Senza potenziare la capacità di fare il tampone non c'è senso, perché altrimenti ogni giorno teniamo 100.000 persone a casa. Professore, possiamo accontentarci sul fatto che non c'è neanche l'app al momento, per cui non ci abbiamo né i tamponi né l'app. Sì, però, sto scherzando, però, naturalmente. A me veramente piacerebbe avere tutte e due un'app che funziona, che è condivisa, che è controllabile anche la da app noi, misteriosamente l'app è scomparsa dai radar. Conte non ne ha parlato, si dice che entrerà in funzione forse a giugno, non si sa perché far trascorrere questo mese così. Comunque, un'altra cosa che le voglio chiedere, professor Crisanti, anche se lei sulle cure, diciamo, si esprime più malvolentieri perché non è il suo campo, però le voglio chiedere, dall'osservatorio che ha, anche questo aspetto, insomma, sono fondamentali queste cure precoci per poter mantenere una, come dire, terapie intensive vuote, perché la malattia si cura prima sul territorio, però le medicine necessarie, la clorochina, l'eparina, il tocilizumab o la il plasma, per esempio, esistono per tutti? Cioè, ci sono medicine per tutti in questo momento? Beh, guardi, o scarseggiano, allora, come sembra? Ma guardi, che scarseggino obiettivamente non mi sembra la parola giusta. Guardi, perlomeno noi in Veneto non abbiamo mai riscontrato questa problematica. L'unica cosa che posso dirle è che dall'idrossiclorochina siamo passati all'idrossiclorochina perché era praticamente terminato, era in via di spedizione. Però non abbiamo mai avuto vere e proprie emergenze di non curare le persone. E come diceva lei, noi stiamo cercando di curare le persone a casa, di non, certo, farle venire in ospedale, perché prima si cura e più si rallentano quei processi che poi portano all'aggravamento e si evitano poi. La maggior parte dei nostri pazienti è curata a casa, pochissimi sono curati in ospedale, e poi guardi, noi a Padova adesso 15 persone in rianimazione, quindi pochissime. Ecco, questo diciamo è dato confortante, che si sono fatti anche tanti progressi sulla terapia e su come gestire questi malati. Questo è uno degli aspetti più positivi. Un'ultima cosa che le voglio chiedere prima di salutarci, professor Crisanti, è questa: se nello studio che sta facendo a Voeuganeo, e soprattutto per quanto riguarda la parte relativa ai bambini di cui avevamo parlato la settimana scorsa, bambini che risultano poco toccati, quasi per niente toccati nello studio che lei ha fatto lì, se ci sono degli aggiornamenti, delle novità per quanto riguarda anche questa categoria particolare. Ma guardi, adesso quello che faremo noi, l'abbiamo già annunciato, poi Eucanio, faremo un terzo campionamento in cui prenderemo anche il sangue e quindi saremo in grado di verificare che tipo di anticorpi fanno, quanti ne fanno, e questo sicuramente spero includerà anche parte dei bambini. I bambini, lo confermo, lo studio di Voeuganeo dice che sono particolarmente resistenti. Ora, questo non vuol dire che un bambino non si ammala mai, perché certo, a volte capita che dei bambini si ammalano, fortunatamente nella maggior parte dei casi la risolvono questa malattia in un paio di giorni, però dire che un bambino non si ammala mai non è vero. Quello che abbiamo detto è che i bambini sono particolarmente resistenti e tendono a non ammalarsi anche in presenza di persone infette. E questo lo confermo, però questo vuol dire anche che sono poco contagiosi, perché se si ammalano poco, sono mediamente poco contagiosi. Esatto, è comunque un elemento da tenere in considerazione. È un elemento importante, certo. Chiaramente sono poco contagiosi. Se si ammalano, questa finestra così di malattia dura pochi giorni, uno o due giorni, e hanno una carica virale in genere molto bassa. Quindi le ragioni per cui questo accade non si sanno. Quindi capire perché questo chiaramente sarebbe molto interessante, perché ci darebbe anche una chiave poi per trovare un trattamento, no? Certo, staremo a vedere, credo che prima o poi ci si arriverà, abbiamo fiducia nel vostro lavoro. Grazie, assolutamente. Professor Crisanti. Buona giornata. Buona giornata. 13:48, piccola pausa, torniamo tra pochissimo insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo.